si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, oggi puntata, diciamo così, pasquale, pre-pasquale, puntata registrata per esigenze interne di Radio 24, allora non c'è la possibilità di intervenire in diretta, non possiamo andare avanti con il concorso l'ultima categoria, la voteremo, state ben attenti, sabato prossimo, ultima puntata del concorso, ultima possibilità di vincere il viaggio sostenibile di EcoTube. Subito qualche notizia per iniziare, buone notizie nel settore della sanità in Puglia, 1600 assunzioni in arrivo tra medici e infermieri, insomma è un settore nel quale c'è sempre bisogno. E poi, questa è davvero bella, fuori le merendine dalle scuole. L'Unione Europea continua a finanziare un progetto che prevede la frutta buona, gratis, nelle scuole dei nostri bambini, insomma alimentazione sana, incentivi all'agricoltura, insomma ce n'è per tutti. L'ultima è una curiosità che viene da Napoli, nascono i Pochos, la prima squadra di calcio gay, per testimoniare proprio cosa? Questo, la lotta al pregiudizio nel mondo del calcio, che lo sapete, c'è questo pregiudizio nei confronti degli omosessuali, allora l'iniziativa è di Giorgio Sorrentino, un attore, qualche settimana fa è partito con questa cosa qua, hanno fatto la prima partita, noi i pregiudizi non li combattiamo, dice, ma ci giochiamo. Adesso aspettano delle altre squadre per essere sfidati, sempre nel segno della lotta al pregiudizio. Adesso andiamo ad iniziare. تحكم في ديزورغانيزاسيون سكريت هي تحط القوانين وتحركنا كالماريونات هي تعمل التخطيط تمصنا تحطنا في اللامارك منظمات كبار كيف الجروب بتاع بيتشيلبرج في قمة الهرم عدو الإنسانية الحركة السرية اللي اسمها الماسونية هي تخدم في البعيد في الخفاء جامي تبان بعقيدة الشيطان وفرسان هيكل سليمان عندها طقوس وأسرار تتعامل باللي سامبول فيها ريوس كبار هي اليوم شادة المونوبول تحكم في الاقتصاد في الميليتير وفي السياسة هي تختار. Questo rap tunisino per entrare nel giusto clima, perché la prima notizia da cui partiamo oggi è questa: parte la carovana antimafie organizzata tra gli altri da Libera, ma insomma anche dall'Arci, la CGIL, CISL e UIL, e quest'anno si parte proprio da Tunisi. E salutiamo Tonino Dell'Oglio, buongiorno Tonino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro responsabile di internazionale di Libera. Perché proprio da Tunisi parte quest'anno la carovana che è giunta alla 16ª edizione, insomma questa manifestazione a carattere anche simbolico importante per testimoniare insomma la lotta alla mafia e per la legalità, Tonino? Le mafie si sono globalizzate già da tempo, sono state favorite dai processi di globalizzazione. L'antimafia arranca da questo punto di vista, pecchiamo a volte di una mentalità o di una visione un po' ristretta e quasi provinciale, per cui a nostro avviso riuscire a creare reti internazionali, riuscire a mettere in rete, in circolo, risorse, esperienze, buone pratiche, anche di organizzazioni, associazioni, movimenti, che sono in giro per il mondo diventa essenziale. Libera ha sempre partecipato agli appuntamenti in questi 10 anni del Social Forum Mondiale, che spesso sono stati appunto in Brasile, sono cominciati 10 anni fa appunto in Brasile e adesso approdano in Tunisia. E il senso è soprattutto il porre l'accento su una questione particolare, che è la corruzione, che è un carattere, un aspetto, mi piace, mi preme anzi sottolinearlo, che non è cosa altra dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, ma che al contrario integra la criminalità. La mafia non può essere tale se non c'è l'altra faccia della medaglia, che è la corruzione. Tunisi, da dove poi è partita anche insomma la primavera araba, e quali saranno però le altre tappe importanti di questa carovana antimafie che parte da Tunisi ma poi verrà in Italia e si chiuderà quando? Credo nel sud della Francia, tra l'altro, se ho visto bene. Esattamente, beh, intanto diciamo che Tunisi è stata scelta dal Social Forum Mondiale ed è stata scelta proprio perché dalla sponda del Mediterraneo spira una primavera nuova con tante fatiche, contraddizioni, difficoltà, ma comunque una consapevolezza nuova da parte delle organizzazioni e della società civile, quindi da questo punto di vista diventa importante. Partiamo da Tunisi proprio perché il tema tra l'altro del Social Forum è quello della dignità, e noi pensiamo che non ci sia dignità appunto senza bando alla corruzione, alle mafie e alla criminalità e alla violenza. E quindi naturalmente dalla Tunisia sbarchiamo, come dire, in Sicilia, dove ci sarà il 3 aprile una prima tappa giornata a nostro avviso particolarmente significativa, che è a Pizzolungo, dove appunto si ricorda, si fa memoria di quella terribile strage, l'attentato al giudice Carlo Palermo, nella quale strage appunto perirono invece Barbara, Giuseppe e Gaetano, i tre figli, le tre persone appunto assolutamente innocenti che si erano trovati nel fuoco, diciamo, di questo attentato. E lì vorremmo sottolineare un po' l'importanza di mantenere viva, non di conservare, mantenere viva la memoria, perché un popolo che perde la memoria perde anche la propria storia e non riesce a tradurla nella contemporaneità. E poi risaleremo lo stivale facendo tante tappe significative, abbiamo calcolato appunto che siano 70 tappe diverse. Una delle cose che forse più significativa è appunto a Napoli, nell'Interland napoletano, ci fermeremo a Quarto, dove c'è una squadra di calcio che è stata strappata alla criminalità organizzata e oggi disputa il proprio campionato nel segno della legalità, portando avanti, ecco, lo sponsor di questa squadra è la legalità. E poi sì, appunto, dove dicono che la mafia non esiste, insomma, al nord, a Milano, eccetera, sì, dove invece sappiamo che ci sono tanti beni confiscati e soprattutto l'andrangheta, Cosa Nostra, la Camorra hanno ormai prodotto e esteso le proprie metastasi. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi dopo, Tonino Dell'Oglio, ti voglio chiedere se sei più ottimista o meno ottimista in questa fase per l'Italia comunque di ripartenza, con un Parlamento nuovo, un governo che vedremo se nascerà come, per il Parlamento, per quanto riguarda la campagna Riparte il Futuro. Sappiamo, sono entrati 300 circa parlamentari col braccialettino bianco, che si impegnano anche grazie all'impegno di Libera, no, a fare una legge anticorruzione nei primi 100 giorni, un risultato anche grasso, il Presidente del Senato ha il braccialettino bianco, e allora voglio sapere se questo è un viatico positivo. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci di nuovo in compagnia di Tonino Dell'Oglio, responsabile internazionale di Libera, col quale stiamo parlando della carovana antimafie che parte il 30 marzo, cioè esattamente oggi, da Tunisi, e che poi, come abbiamo sentito, avrà tutto uno sviluppo in giro per l'Italia, finirà nel sud della Francia. La domanda, dopo aver parlato di questo, però, è se in questa fase, grazie anche alla campagna Riparte il Futuro, portata avanti proprio da Libera, c'è da essere un pochino più ottimisti, anche grasso al braccialettino bianco, no? Tonino, che ne pensi? Non solo, ma Grasso è stato tra i primi firmatari di una proposta di legge molto più attenta, insomma, alla corruzione, in cui possibilmente venga prevista anche la confisca. Io voglio ricordarlo che nel 95 Libera raccolse 1 milione di firme per riuscire ad ottenere una legge che prevedesse la confisca dei beni ai mafiosi e ai corrotti, e che il Parlamento approvò quella legge soltanto per i mafiosi, cioè nel senso che furono esclusi i reati di corruzione. Noi chiediamo che ci sia anche una confisca non tanto della quota parte della mazzetta, no? Quindi della corruzione, quanto invece del bene che si viene ad acquisire grazie a quell'atto corruttivo, insomma. Quindi un concetto più esteso e che possa raggiungere più situazioni. Poi chiediamo anche un testo unico antimafia, perché attualmente le leggi che riguardano questo tema e questo ambito sono diffuse in 1000 rivoli e questo non facilita né le indagini né lo svolgimento dei processi. Chiediamo che venga riconosciuto un reato di autoriciclaggio, che è proprio la base. Oggi abbiamo delle mafie che sono imprenditoriali, hanno assolutamente capacità finanziaria come mai si era verificato, e sono favoriti dalla globalizzazione e dalla crisi in corso. Quindi, voglio dire, le cose da fare ci sarebbero molte. Siccome ci sono appunto circa 300 parlamentari che sono stati tra quelli che hanno firmato il patto, no? Riparte il futuro, noi abbiamo buona speranza, voglio dire, che ci sia questo impegno, e non c'è dubbio che gli terremo il fiato sul collo. Certo, senza governo tutto questo, come dire, che pure era una buona aspettativa, ripeto, perché questo è il Parlamento più giovane, come dire, della storia democratica del nostro paese, e anche con presenze femminili che dà un valore aggiunto, purtroppo tutto questo sarà difficile. Tanto Grillo ha detto che si può stare anche senza governo, basta che ci sia il Parlamento, quindi siamo a posto. Scherzi a parte, grazie a Tonino Dell'Oglio, responsabile internazionale di Libera, con il quale abbiamo parlato della carovana antimafia. Mafia che partiva oggi da Tunisi. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi. E se insomma la lotta all'illegalità la si può fare così come abbiamo visto con la carovana antimafie, manifestazione anche di forte sapore e simbolico, si può fare anche in modo minore se vogliamo, ma non meno significativo, come accade per esempio a Niscemi. Questo motivo di una celebre per gli americani canzoncina contro il bullismo, diventata appunto testimonial della lotta al bullismo in America, l'abbiamo scelta perché vogliamo prima di tutto dare una notizia che non ci porta subito in Sicilia come annunciato, ci arriveremo tra un attimo, ma ci porta a Villeneuve in Val d'Aosta, dove un patto contro il bullismo farà forse discutere, perché tra le clausole di questa iniziativa che riguarda anche le scuole medie locali è previsto che i genitori, insomma le famiglie dei ragazzini che si rendono responsabili di atti di bullismo insomma, si trovino a pagare anche maggiori spese, per esempio per i trasporti, e quindi insomma un disincentivo economico. Non so se sarete d'accordo, insomma è un'iniziativa che merita una certa attenzione. Però noi vogliamo andare in Sicilia e intanto salutiamo il nostro caro ospite che è Salvatore Giarrizzo. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, se sono ben informato, dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Niscemi, della sezione di Niscemi? Sì, sì, perfettamente. Ecco, sì, sì. La sezione di Niscemi, intitolata una medaglia d'argento, un nostro compaesano che è stato vittima, diciamo così, della mafia, a Gallarate, in provincia di Varese, che è morto tanti anni fa, un giovane di appena 22 anni, carabiniere, e quindi abbiamo intitolato a lui questa sezione. Pensate, solo 22 anni. Solo 22 anni, sì. Per parlare di cosa? Di un progetto che riguarda la legalità nell'aspetto del bullismo e di altre manifestazioni, magari minori rispetto a quello che può essere il discorso della mafia, di cui abbiamo parlato anche poco fa, perché l'idea è questa, insomma, prendere degli ex carabinieri in pensione o in congedo, adesso ci spiegherà lei, per fargli fare che cosa lì a Niscemi? Allora, noi abbiamo iniziato questo progetto, l'abbiamo sposato assieme col Comune tramite una convenzione che abbiamo avuto con loro 3 anni fa. Questo progetto è un progetto abbastanza semplice, però che ha dato veramente i suoi frutti. In 3 anni c'è stato un calo veramente quasi del 70% di tutte quelle piccole situazioni che succedevano nel centro storico, soprattutto il sabato. Quindi che cosa facciamo noi? Noi siamo tutti gli ex carabinieri, come ho detto bene, in congedo e anche qualcuno che è in pensione. Noi diciamo a Niscemi fungiamo da deterrente, la nostra diciamo così, cioè basta vedervi presenza. La gente vi vede in giro per strada, oddio, si spaventano. È una figura amica a tutti i ragazzi, perché sì, ormai diciamo così col tempo e con gli anni ci vedono più come amici che come nemici, perché Niscemi è una cittadina di quanti abitanti, giusto per capire? Ah, 27.000 abitanti. Beh, insomma non è neanche una città tanto piccola, insomma è già una città, una cittadina media, insomma. Quanti siete intanto? Poi... Allora, noi siamo in 48 in questo momento, perché abbiamo avuto, diciamo così, dei nuovi soci che si sono associati quest'anno. Abbiamo iniziato in pochissimi, eravamo circa in 10. Questo progetto partì come prima una sezione distaccata da un'altra associazione. Poi è diventato di moda, avete fatto tendenza. No, poi diciamo che siamo riusciti a arrivare al numero per legale, per poter, diciamo così, avere un'associazione tutta nostra, sì. E quindi poi insomma da quel momento in poi abbiamo iniziato a, diciamo così, a sposare questo progetto, come dicevo prima, con il Comune. Quindi la nostra presenza il sabato sera è quello assolutamente di non noi non ci in certo senso la nostra figura non è una figura figura che possa... Sì, ho capito, lei dice non sostituiamo le forze dell'ordine, non sostituiamo eccetera. Assolutamente le forze dell'ordine. Ma questo ci mancherebbe altro. Però invece che cosa fare? State lì un po' in mezzo alle situazioni, insomma, parlerete anche con i ragazzi, che sì, ne so. Sì, assolutamente. Quindi però quando può capitare tipo che succede sul nascere un qualcosa come una rissa oppure quello che potrebbe essere anche un atto di bullismo, ecco, fate valere i vostri muscoli. Ecco, noi interveniamo, quindi sediamo gli animi, insomma, i ragazzi li riprendiamo col buono, insomma, li portiamo di nuovo a ragionare, quindi ecco, cerchiamo questo. Ma lei personalmente si è trovata in che situazione? Cioè, ci vuole raccontare, non so, qualche episodio, qualcosa che le è capitato, nel quale lei si è trovato protagonista di una situazione che poteva degenerare, invece, grazie alla vostra presenza, è andato tutto liscio? Sì, sì, mi è capitato, diciamo così, che poi sono, diciamo, le maggiori cose che succedono sempre. Un sabato sera poi c'è stato un gruppo di ragazzi che per una ragazza, sono stati motivi, diciamo, di preciso, però ecco, per una parola detta in più, questo gruppetto di ragazzi si hanno incominciato in un certo senso a riunirsi e quindi montando un po' la rissa. Ecco, formare una rissa con un altro gruppo di ragazzi che aveva un'amica, questa ragazzina qua. E voi che avete fatto? Noi ci siamo accorti un po' che si era formato questo gruppo di persone, questo gruppo di ragazzi che già si agitavano, e allora la nostra presenza di intervenire subito, abbiamo preso questi ragazzi, li abbiamo portato a ragionare, poi insomma, siccome eravamo in tanti, eravamo in 5-6 persone, quindi ognuno ha portato un paio di persone, diciamo così, a più miti consigli, sì. Così, a dare così, ma dai, queste cose non si fanno, ma non è così, anche perché da questo punto di vista, oltre ad essere dei soci dell'associazione nazionale carabinieri e degli ex carabinieri, siamo anche papà, quindi abbiamo benissimi problemi, cioè, i problemi che possono essere una maturità data. Che età media avete? Perché siete tutti in pensione o anche in congedo, che è diverso? No, allora noi siamo in congedo, la maggior parte di noi siamo tutti in congedo, perché chi ha fatto il servizio di leva oppure chi ha fatto qualche anno e poi ha rinunciato per fare un altro tipo di lavoro, e quindi siamo un'età media che va dai 35 quindi 37, fate, cioè, 45. Siete persone che fate anche altro poi nella vita, cioè non è che siete nell'arma. Lei per esempio che cosa fa? Io niente, io sono impiegato presso una struttura pubblica ospedaliera e quindi a sua volta quando fu io feci 2 anni nell'arma, quindi l'anno di leva più un altro anno che feci in più. E così e per quindi... tenersi in allenamento, insomma, avete trovato questa, che è una bella iniziativa, e avete firmato un protocollo, cos'è, col comune? È un protocollo d'intesa che noi abbiamo firmato col comune, e quindi questo da ormai già da tempo e questa cosa va bene, ma soprattutto oltre a questo ci sono anche altre iniziative che noi facciamo, tipo per esempio il sorvegliare le scuole, la presenza nostra è quella anche un deterrente per quei ragazzi che vorrebbero in un certo senso spacciare davanti alle scuole, perché c'è la nostra presenza, perché noi accudiamo l'entrata e l'uscita dei giovani alle scuole. Un'altra cosa che noi facciamo oltre a questo è quello di vigilare le opere pubbliche di Misceni. Quindi, secondo me Giarrizzo, se lei mette su una scuola di formazione, si fa anche pagare per fare questa cosa qua anche in altri posti in Italia, ne viene fuori una cosa che può funzionare, no? Io spero che sia, diciamo così, che gli altri possano prendere esempio da noi e quindi possano in un certo senso portare a compito e a termine quello che noi facciamo, quindi sarebbe una bella cosa, quindi una bella iniziativa. Io spero che gli altri lo faranno anche perché salvaguardare il nostro proprio interesse, soprattutto salvaguardare la nostra propria città, significa anche vivere bene. È sempre una cosa che porta qualcosa di positivo a tutti. E insomma, se volete entrare in contatto potete mettervi in contatto col programma, noi sicuramente vigileremo a sua volta, ma poi insomma basta cercare l'Associazione Nazionale Carabinieri di Niscemi, dove c'è Salvatore. Grazie intanto per essere stato con noi e per quello che fate con le vostre iniziative. Si può fare cronache da un paese migliore. La notizia l'abbiamo sentita questa settimana, c'è un nuovo record purtroppo di disoccupati tra i neolaureati. Ed è una notizia che insomma negli ultimi mesi ci siamo sentiti dire più volte. Però siccome noi qua cerchiamo sempre di metterci un po' una toppa, e allora siamo andati a cercare quale può essere un versante positivo di questa faccenda. Il versante è questo: che ci sono i mestieri artigiani che, statistiche alla mano, continuano ad andare bene, a tirare molto. E allora perché non studiare per studiare? Laurearsi è giusto, ma non dimentichiamoci di fare dei percorsi di formazione, magari seguendo anche delle proprie passioni, e dedicarsi a questo. C'è chi a favorire i mestieri artigiani dà una grossa mano, ed è il progetto Botteghe di Mestiere dell'Agenzia Italia Lavoro. Salutiamo Paolo Reboani, che è presidente di Italia Lavoro e amministratore delegato anche. Buongiorno Reboani. Buongiorno a lei. Un'agenzia del Ministero del Lavoro che si occupa proprio di questo, cioè non dimentichiamoci della tradizione artigiana, e voi, c'è un bando aperto anche adesso, date la possibilità a dei giovani, dei ragazzi, adesso ci dirà tutto come funziona, quali sono i limiti di età, come si fa a partecipare, di iscriversi per fare cosa? Dei tirocini formativi, poi speriamo nelle assunzioni future, in aziende artigiane. Reboani, una bella iniziativa. Ma dunque, l'iniziativa è un'iniziativa, come ha detto lei, che cerca di recuperare le tradizioni artigiane o piccole industriali dei nostri distretti produttivi, che sono troppe volte dimenticate. Le statistiche ci fanno vedere che c'è una grande gap tra domanda e offerta di lavoro in queste realtà, e che questi possono essere mestieri molto importanti anche per i giovani. Lei citava i laureati, la difficoltà di inserimento, qualcuno si dovrebbe ancora domandare, lo fa troppo poco, quanto siano sbagliati quei percorsi formativi e quanto siano anche più remunerativi a volte i percorsi formativi che immettono direttamente nel mondo del lavoro. Questo è un tentativo che unisce il recupero del Made in Italy, dei distretti del Made in Italy, con le aspirazioni dei giovani e con le necessità dei giovani. Dicevamo, il bando è ancora è partito da pochi giorni, no? Ed è ancora possibile, credo, aderire sia per le aziende che per gli aspiranti tirocinanti? Esatto, noi abbiamo definito sostanzialmente le imprese, sì. Quindi il mondo delle imprese è sostanzialmente definito, e adesso abbiamo già aperto un primo, diciamo, bando per un primo gruppo di, sì, giovani, ne apriremo ne apriremo un terzo. L'idea è di fare 3 cicli in ogni, sì, bottega, o 3 o 2 cicli per circa 10 giovani attraverso il tirocinio. E come dice lei prima, l'obiettivo vero è quello di fare in modo che il giovane, dopo il tirocinio, entri stabilmente. Certo, questo è l'auspicio. Quali sono i canali per gli aspiranti, insomma, per farsi avanti? Bisogna andare sul sito, per esempio? Bisogna andare sul sito di Italia Lavoro, sì, registrarsi all'interno della piattaforma che è lì disponibile, e poi saranno selezionati attraverso le imprese. Noi daremo le liste di questi giovani tra i 18 e i 29 anni, giovani che riceveranno per questo tirocinio un buono, diciamo, un assegno di 500 euro mensili. Butta via, tra l'altro, insomma, sappiamo che spesso in molte aziende c'è la pratica dello stage non retribuito, no? Che fa andare su tutte le furie un sacco di gente, forse anche giustamente, anzi senza il forse, no, giustamente. Qua è chiaro che c'è un'agenzia pubblica, no, che dà una mano, però la situazione è diversa. Allora io leggo un po' quelle che sono le categorie che sono in ballo, insomma, si va dalle costruzioni all'enogastronomia, alla moda, la lavorazione del legno, ristorazione, ma anche benessere, l'arte orafa, la nautica, gli strumenti musicali, l'artigianato artistico. Sono settori, alcuni più noti, altri meno noti, sappiamo dalle statistiche che sono settori in cui c'è sempre bisogno di lavoro, perché spesso sono mestieri che si perdono nei distretti importanti che ci sono in Italia. C'è qualcosa che non va, secondo lei, nella mentalità della nostra epoca, insomma, culturalmente parlando, per cui si fa fatica, mi metto nei panni dei ragazzi, ad approcciarsi a questo tipo di realtà? Che cos'è che bisogna cambiare, secondo lei? Ma noi abbiamo abituato i ragazzi e le nostre famiglie anche all'idea che l'innalzamento delle nostre capacità di reddito e anche culturali dipende da un percorso che passa solo attraverso l'università e poi attraverso alcune, diciamo, professioni elevate. In realtà questo è stato un errore, noi abbiamo dimenticato le caratteristiche dei nostri settori produttivi, le vocazioni dei nostri territori, abbiamo dimenticato che il lavoro manuale nella sua caratteristica non è un lavoro secondario. Io faccio sempre l'esempio, perché è una realtà, che in Germania coloro che hanno fatto questi percorsi, per esempio alcuni ingegneri, alcuni esperti di impiantistica eccetera, oggi hanno un salario che è superiore a quello di un laureato avvocato o di un professionista. Per esempio, credo sì, che sia proprio una questione di mentalità, ecco. Per esempio uno si può laureare, che ne so, in economia, poi si può fare una formazione se ha una passione in uno di questi settori dell'artigianato e dopo qualche anno di lavoro può pensare di aprire una sua impresa e magari mettere a frutto a quel punto anche le competenze della laurea in economia per l'aspetto gestionale. Insomma, i percorsi possono essere più differenti, basta non dimenticarsi che c'è questo mondo del lavoro che aspetta, perché è vero, lei ce lo conferma, insomma i dati indicano questo, che è un campo dove c'è possibilità. Assolutamente, noi vediamo dalle indagini che vengono fatte sul territorio che la media è che ci sono circa 100.000-120.000 posti non coperti di lavoro in questi settori che lei elencava, in particolar modo quello dell'alimentare, quello della moda, quello della lavorazione del legno, le impiantistiche. Quindi c'è un gruppo anche in questa crisi, anche in questa situazione ovviamente drammatica, per i giovani ci sono possibilità di iniziare un percorso lavorativo altrettanto importante dal punto di vista reddituale, altrettanto soddisfacente dal punto di vista delle aspirazioni e anche, se vogliamo, che possa veramente contribuire a far sì che le caratteristiche del nostro sistema produttivo continuino negli anni. Cioè questo programma è anche per recuperare la vocazione manufatturiera industriale del paese e non consegnarci completamente a un'economia di servizi. E va bene, staremo a vedere. Intanto grazie Paolo Reboani, presidente e amministratore delegato di Italia Lavoro, grazie per questa iniziativa. Grazie a voi. E dalla tradizione andiamo invece a parlare dell'innovazione. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ecco, sì, con questa sigletta un po' dark, un po' da Blade Runner, insomma, vogliamo andare a vedere ogni settimana che cosa c'è da vedere di nuovo, insomma, in giro. E la notizia da cui partiamo questa volta è che, vogliamo parlare di innovazione, l'avevamo anticipato, a Torino, secondo i dati di Union Camere, c'è, insomma, una concentrazione particolare di start-up, cioè di imprese nuove che partono soprattutto nelle nuove tecnologie, insomma, nei nuovi settori più avanzati. Ne vogliamo parlare? L'abbiamo convocato proprio per questo con Marco Cantamessa, che è presidente di I3P Incubatore. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un incubatore di nuove imprese, di nuove realtà, insomma lei sicuramente saprà dirci perché c'è questa concentrazione di startup a Torino, una iniziativa questa che nasce nel Politecnico, una grande realtà universitaria insomma della vostra città, poi ci sono dietro anche il Comune, insomma altri attori, poi ci spiegherà anche il suo ruolo istituzionale. Prima di tutto, questo dato sulla concentrazione di startup a Torino la colpisce, se l'aspettava? Lei lo sa sicuramente, forse anche prima che esca il dato, insomma, perché lavorandoci in questo settore, che ne pensa? Ma non è stata assolutamente una sorpresa, nel senso che Torino da sempre è città di start-up, poi col tradizionale aplomb torinese magari lo si racconta poco in giro. L'incubatore, e lì arriviamo noi a dare una mano, insomma. Esatto. L'incubatore del Politecnico è stato il primo incubatore universitario italiano, considerate che è nato nel 99, quando la parola start-up non significava niente per nessuno. E quindi il fatto che si sia un terreno fertile per questa attività era assolutamente noto, e quindi il fatto di avere più del 10% delle, quasi 15% delle start-up italiane in provincia di Torino è un dato che ci attendevamo senz'altro. Insomma, nel 99 parlavamo ancora italiano, non usavamo ancora tutte queste espressioni. Sì, e se qualcuno mi avesse detto business angel si pensava di andare in parrocchia o in paradiso, chissà. In paradiso, infatti. Senta, ma di che cosa si occupa l'incubatore di cui lei è presidente, che sicuramente sarà come dire, protagonista di questo fiorire di startup a Torino? Ma noi inizio dicendo che sì, siamo protagonisti, nel senso che delle 53 startup registrate in provincia di Torino noi ne abbiamo un poco più di 20, quindi sicuramente ne siamo responsabili, però ci fa moltissimo piacere che ci siano tante startup innovative anche fuori dall'incubatore, nel senso che questo denota una vitalità generale del territorio. Noi quello che facciamo essenzialmente è quello di stare vicini al Politecnico di Torino, aiutare da un lato ricercatori e studenti a fondare delle start-up che derivino direttamente dal loro lavoro di ricerca, sì. Però allo stesso tempo aiutiamo anche chiunque abbia voglia di fare una start-up su una base tecnologica a venire a insediarsi vicini al Politecnico di Torino per riuscire ad attingere alle tecnologie, alle competenze che vi abitano. Ecco, beh, si parla molto insomma di start-up, questo fenomeno, ci sono continue iniziative in giro per l'Italia, favoriamo le start-up, bla bla. Poi però capita spesso di leggere delle cose che non hanno un reale futuro, cioè iniziative che magari si conquistano anche qualche titolo sui giornali, questa è una cosa che a me incuriosisce molto, no? E poi magari vai a verificare, sei mesi o un anno dopo non c'è più nulla. C'è un po' questo, anche questa sopravvalutazione, cioè come si fa poi a dare un futuro davvero? Quante di queste startup che voi avete battezzato, per esempio, a tot tempo di distanza hanno un futuro? Ma allora, devo dire che fare startup seriamente sicuramente vuol dire rischiare, e rischiare vuol dire che molte potrebbero poi andare a finire un po' nel nulla. D'altra parte, per ogni Facebook o Google di cui leggiamo sui giornali, quante sono le startup in realtà che non ce l'hanno fatta. Allora, nella nostra esperienza, noi abbiamo lanciato negli anni più di 140 startup, direi 25 più o meno hanno chiuso, le altre sono ancora vive o sono state acquisite, che comunque è un segno di successo. Di queste qualcuna ha avuto un ottimo risultato, stiamo parlando, ecco, di aziende che oggi sono diventate delle piccole e medie aziende di 40 dipendenti, no, quindi vanno bene, soprattutto che sono in piedi, che esportano e continuano a crescere. Questo è importante. Poi, adesso, le altre sono piccoline e rimangono a fare un lavoro più di servizio al territorio, ma anche questo va bene. Poi magari si potranno sviluppare in un futuro, oppure insomma ci sta anche che una iniziativa poi non è detto che debba decollare e diventare grande per forza, però insomma l'importante è che nei grandi numeri poi ci sia una consistenza di questo fenomeno. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in compagnia con Marco Cantamessa, presidente dell'incubatore I3P del Politecnico di Torino, al quale stiamo commentando il fenomeno dell'esplosione, o comunque insomma della fioritura di start-up a Torino. Insomma, una città che evidentemente si presta, no? Grazie all'università, grazie forse anche allo stile, la qualità della vita. Insomma, lei ce l'ha una spiegazione, un segreto un po' anche di Torino come città accogliente da questo punto di vista? Ma io direi che Torino si è molto svegliata negli ultimi tempi e ha aumentato anche la sua attrattività verso l'esterno. Sicuramente avere una città con una buona qualità della vita vuol dire, però vuol anche dire avere sicuramente un retroterra scientifico e tecnologico come quello che offrono l'università e il Politecnico, e sicuramente vuol dire tantissimo avere quella cultura e quelle competenze del manifatturiero che in questo momento hanno grande bisogno di essere riconvertiti su nuove tecnologie. A me piace molto vedere come le nostre start-up si stiano sviluppando senza la necessità di mettere su la fabbrica, perché la fabbrica c'è già ed è presso i tanti fornitori tradizionali che in questo momento hanno gli impianti fermi e sono felicissimi di lavorare insieme ad esse. Ecco, appunto, a questo proposito ci vuoi raccontare qualche caso di successo recente, qualche settore, qualche linea di tendenza per capire che cosa va in questo momento, così diamo anche qualche messaggio positivo a chi ci ascolta in tema di startup. Sì, senz'altro, ma come linea di tendenza noi abbiamo avuto un po' delle ondate che derivano un po' anche dalle mode, ma anche dai settori economici che trainano. Abbiamo avuto una grande ondata di ICT quando siamo stati fondati, poi c'è stato parecchio interesse verso il cosiddetto clean tech, quindi tutto il settore che ha a che fare con la produzione di energie rinnovabili o risparmio energetico. Sì. Adesso assistiamo a notevole interesse nel settore med tech, cioè tutto quello che ha a che fare, direi, col settore della salute inteso in senso ampio. E sono tutti i settori, poi ovviamente abbiamo anche un settore internet che è molto molto interessante e effervescente. Quello che però mi interessa molto è proprio vedere queste sinergie tra le startup che si rivolgono poi alla produzione di beni tangibili e il tessuto del territorio. Un esempio che mi piace citare della nostra startup recente che sta andando bene è una società che sta lavorando nel settore del risparmio energetico per le valvole pneumatiche che si usano nelle fabbriche, quanto di più metalmeccanico si possa pensare, col loro brevetto e con i loro dispositivi meccanici con un po' di elettronica di controllo stanno iniziando a lavorare bene senza appunto la necessità di fare particolari investimenti, proprio perché la capacità di industrializzazione del territorio è elevatissima. Senta, l'ultimo weekend avete fatto tappa a Torino, Startup Weekend, guarda caso tra l'altro, che è una manifestazione, insomma, un evento che va itinerante, insomma, in varie città, anche nel mondo, è proprio una cosa che è nata non so dove, lei forse lo saprà. Negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, manco a farla apposta. Di che si è trattato? Ma la Startup Weekend è una cosa che io trovo molto bella, molto affascinante. Si tratta in pratica di riunire in una struttura come la nostra almeno un centinaio di persone che abbiano voglia per un weekend di dedicarsi a tentare di mettere su una startup. Allora si radunano persone che hanno le idee, persone che magari sono capaci di mettere un po' di tecnologia, tipicamente stiamo parlando di internet in questi casi, insieme a designer o altri tipi di persone. Scelgono, ciascuno viene con la propria idea, poi le idee vengono in qualche modo votate in modo da arrivare a una ventina circa di progetti e poi per tutto il weekend ci si lavora tentando di mettere a fuoco questo progetto imprenditoriale, iniziare a ragionare su quello che potrebbe essere un modello di business e poi arrivare almeno a un abbozzo di business plan. In qualche caso addirittura si fanno anche qualche piccolo prototipo. Addirittura, in due giorni. Insomma. In due giorni. Capite bene che è fantastico tutto ciò. Senta Marco Cantamessa, un telegramma così veloce al governo che non c'è, ma che forse nascerà, o al Parlamento che c'è e che sappiamo questo, insomma, dell'impresa, dell'occupazione, è uno dei temi centrali. Cosa volete voi? Cosa, dall'alto della vostra esperienza, qual è il cammino da seguire? Ah, io direi che il precedente governo ha fatto un atto fondamentale per le start-up in Italia, che è quello di riconoscerle con una legge e di iniziare a prevedere delle misure di agevolazione. Quindi il primo pezzo del telegramma è: non ci dimenticate di noi, e anzi, se potete aggiungere qualcosa, fatelo. Il secondo telegramma è: le start-up soffrono molto di più delle aziende tradizionali le sofferenze classiche del contesto economico italiano. Quindi sappiamo tutte le solite lamentazioni che vengono fuori da Confindustria. Bene, il credit crunch, le elevate al quadrato. Bene, fate qualcosa anche per questo. Quindi, insomma, se i problemi li hanno le imprese, lei dice figuratevi le start-up. E qui, insomma, il lavoro da fare non manca. Grazie per essere stato con noi, Marco Cantamessa, presidente I3P, incubatore di Torino, che anche voi, ci ha raccontato questa tendenza, insomma, di questa fioritura di nuove imprese, di nuova generazione in questa città, sorprendentemente Torino. Adesso, tra poco, il prossimo ospite, prossima storia. Può essere considerata una startup anche questa, no? La prossima iniziativa di cui parliamo, un'iniziativa sul web per favorire, insomma, il minor spreco di cibo possibile. Di che cosa stiamo parlando? Lo chiediamo a Daniele Scivoli. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, credo, di iFood Share. Esatto. Che è l'iniziativa di cui stiamo parlando. iFood Share è un sito, una piattaforma web che fa che cosa, Daniele? Niente, è semplicemente una piattaforma web che permette a privati, associazioni e aziende e grandi distribuzioni di poter condividere il cibo con i meno fortunati, quindi il cibo in scadenza o comunque ancora commestibile, e poterlo condividere con il resto dell'Italia. Ecco, ma voi siete partiti dalla Sicilia, se ho capito bene. Precisamente da Caltagirone. Ecco. Siamo in quattro i fondatori, sì, di questa associazione, e tra i fondatori ovviamente c'è un webmaster che ha creato tutta la piattaforma e le altre due soci fondatori, che sono Daniela e Elisabetta, sì, che si occupano della diffusione del sito internet e della gestione dei volontari. Ecco, ma qual è il meccanismo esattamente? Io mettiamo che voglio aderire in qualità di persona, di cittadino, insomma, che ha questa sensibilità. E quindi che cosa posso fare? Come funziona? Allora, è semplicissimo, basta andare sul sito ifoodshare.org, registrarsi come cittadino privato e mettere a disposizione quello che si vuole, anche un chilo di pasta. Quindi semplicemente mettere in condivisione degli altri, nella propria città, una cesta alimentare, la chiamiamo cesta alimentare. Quindi puoi donare da un chilo di pasta a tutto quello che hai voglia di donare e di condividere con le associazioni che attingeranno a questo sito internet contattandoti con una messaggistica interna al sito internet e organizzandoti l'appuntamento per poter ritirare la cesta alimentare che hai già condiviso. Ecco, quindi il punto interessante è questo, cioè quando poi avviene dalla messa a disposizione, invece diciamo la concreta, il fatto che concretamente qualcuno entra in possesso di questa cosa qua, cioè dal lato di chi poi è destinatario di queste ceste alimentari, come funziona l'interazione? Allora, semplicemente si contatta la persona che ha messo a disposizione la cesta alimentare. La cesta alimentare in automatico viene prenotata dalla persona che ha richiesto la cesta alimentare, che può essere o un altro cittadino privato che possibilmente ha difficoltà o un'associazione che ha necessità di reperire del cibo che non riesce a dargli o comunque a soddisfare il banco alimentare. Quindi il sito internet diventa una sorta di urgenza ad avere una cesta alimentare. Ma poi diciamo lo scambio come avviene? Lo scambio concreto come avviene? Lo scambio concreto è come ognuno preferisce, oppure c'è una modalità? Ci si mette d'accordo o l'associazione la ritirerà all'indirizzo indicato dal privato, oppure la passerà a prenderla dall'ufficio, insomma ci si può organizzare in qualsiasi. Quindi è una cosa che insomma funziona e funzionerà, perché voi siete partiti da quanto tempo? Da poco? Da circa 20 giorni. Ecco, quindi diciamo è veramente l'inizio di tutto questo. Sì, funziona bene su un contesto cittadino, cioè in una città piccola, media, grande, insomma, dove ci si può muovere nell'arco di una giornata. Non so, io sono un'associazione o anche sono un privato cittadino, faccio il giro e raccolgo N ceste alimentari. Esatto. Quindi a livello cittadino, insomma. Sì, la cosa fantastica è che ovviamente mettendo a disposizione nella tua città, il sito ti dà la possibilità di comunque di localizzarlo, quindi il sito ti permette di cercare già di vedere e di capire dove siamo. Esatto, per città o per codice di avviamento postale. Siete già sbarcati fuori dalla Sicilia o siete per ora? Ancora no, definitivamente no, però ci hanno già contattato di essere testate giornalistiche nazionali e nazionali, abbiamo fatto qualche intervista radio e abbiamo ricevuto tantissimi contatti da volontari. E qui insomma, vediamo poi se questo sistema funziona. Un'idea nuova, insomma, in questo campo. Sì, assolutamente. E cercare di limitare lo spreco di cibo, che è una cosa ovviamente che orrenda. È orrenda, che bisogna cercare di limitare il più possibile. Sì. Grazie per ora a voi, Daniele Scivoli di iFoodShare, per essere stato con noi. Insomma, questa era l'iniziativa. Potete andare a vedere sul sito iFoodShare.org, una cosa nuova, e magari insomma avrà un futuro. Staremo a vedere. Intanto per oggi è tutto. Io ringrazio come sempre Andrea Piana, che ha scritto insieme a me il programma, Franco Piantanida in redazione, Pietro La Corte oggi in regia. A me mi trovate anche su Twitter, Ale Maurizi. Ci risentiamo domani.